Gli speciali di Radio 24. Constamment, vous êtes dans la victime. Vous êtes très énervé. Parlez. Je ne suis pas du tout énervé, Madame Le Pen. Regardez, j'ai du retard sur vous. Mais vous allez le rattraper. Alors laissez-moi parler. Parlez de votre projet, ne dites pas de bêtises sur le mien. Cari ascoltatori, buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con le presidenziali francesi. Naturalmente il ballottaggio, dunque le ore, anzi ormai sono i minuti, di fatto 45 decisivi per la chiusura di tutti i seggi, molti l'hanno già fatto alle 19. Quello che sentite in sottofondo è stato forse uno dei momenti più attesi di queste due settimane, appunto, che ci hanno separato dal doppio turno, cioè il confronto diretto. Confronto diretto del 3 maggio che è stato, come dire, caratterizzato da scontro piuttosto vivace, accuse nette, insomma un match di box è stato definito da molti e un match di box che però sostanzialmente non sembra avere spostato i termini appunto della sfida. Allora, questa sera sono le 19:15 in questo istante, fino alle 21 saremo insieme. Naturalmente un saluto da Gigi Donelli al microfono, dalla redazione di Radio 24, da Andrea Roccabella in regia, da Barbara Bianchi in assistenza questa sera con noi e soprattutto con i nostri ospiti. Allora io partirei subito ritrovando un grand reporter, un appunto corrispondente inviato, una firma di Les Echos a Parigi, Pierre de Gasquera, con noi due settimane fa. Grazie Pierre, bentornato innanzitutto. Sì, buonasera. Dunque Pier, due settimane fa avevamo detto, se non ci saranno, diciamo, degli eventi di un'importanza clamorosa, era stato anche citato, non dimentichiamo l'elemento della paura, l'ipotesi terrorismo, Macron va nettamente in vantaggio. Ecco, le due settimane sono passate, non sembra che siano accaduti eventi. Io citavo il faccia a faccia non sembra essere stato determinante. Qual è il tuo pensiero di queste due settimane? Beh sì, assolutamente il dibattito non è stato determinante, però ha confermato la debolezza della candidata del Front National, perché ha un po', non è che abbia spostato una parte dell'elettorato tanto forte, però ha galvanizzato, direi, il candidato Macron. Cioè, è chiaramente una candidata stato... che deve recuperare rispetto al voto. Ci si aspettava da lei la capacità di spostare quei voti che le servivano. Quindi tu dici, in realtà non è che non sia servito. Sì, Marine Le Pen ha chiaramente sbagliato il dibattito. Questo è stato un momento piuttosto difficile per lei. E quello che è da notare anche è che Macron ha fatto una campagna piuttosto efficace tra il primo giro e il ballottaggio. I giovani, per esempio, che avevano votato per Mélenchon al primo giro, vedendolo un po' come il nuovo Bernie Sanders alla francese, hanno deciso di votare per Macron in gran parte al secondo giro. Questo sarà confermato questa sera ovviamente, ma certo. Si sa già che è una tendenza, perché sono stati delusi dalla sua mancanza di presa di posizione di Mélenchon contro Le Pen dopo il primo giro. Questo è importante da notare, perché Mélenchon ha deluso una parte del suo elettorato con questa posizione un po' ambigua sulla scelta, quando subito dopo il primo turno, insomma, prese le distanze dal sostenere il blocco anti Fronte Nazionale. Assolutamente sì, non ha preso una posizione netta in favore di Macron, e la Le Pen ha sbagliato di strategia usando una tattica delle fake news attraverso la ripresa delle false notizie sul conto offshore di Macron nelle Bahamas. Un attacco che non è andato a segno. Assolutamente non ha funzionato, e poi è stato troppo aggressivo, dando il sentimento di avere già integrato la sua sconfitta. Chiaro. Prima del risultato. Pierre de Gasquet con noi, lo ringrazio. Abbiamo qualche problema sulla linea, ma direi tutto chiaro. Quindi non solo non ha cambiato le cose, ma Pierre de Gasquet dice in realtà il confronto ha raccolto una serie di fattori negativi che porterebbero a quanto accade in questi minuti, in queste ore, cioè all'indicazione di un vantaggio piuttosto netto da parte del candidato Macron. Il sottofondo lo sentiamo. Naturalmente tutte le reti televisive francesi e internazionali concentrate su questo evento, e uno dei luoghi dove ci si concentra è l'Esplanade del Louvre, dove appunto è stato il luogo scelto nel cuore della città proprio da Macron per raccogliere i suoi sostenitori in attesa dell'esito, e tra loro e con loro c'è il nostro Sergio Nava. Allora, qual è l'atmosfera da questa parte di Parigi, ma anche della Francia, si può dire, stasera? Sì, ciao Gigi, buonasera, mi trovo proprio nell'Esplanade del Louvre, e proprio in questi istanti, negli ultimi minuti, hanno cominciato ad affluire i sostenitori di Emmanuel Macron. Stanno venendo letteralmente verso di me, nelle mani le bandiere francesi, qualche bandiera europea, le magliette che i volontari stanno distribuendo di colore azzurro, rosa, bianco, con la scritta Ensemble à la France, insieme alla Francia, Emmanuel Macron. Stanno affluendo perché hanno aperto i cancelli verso le 19, immagino ci sia anche un filtro importante di controlli di sicurezza. Davanti a me invece abbiamo un palco che di fatto è praticamente un palco da concerto, due mega schermi, un palco abbastanza grande in mezzo, quattro grandi casse, sembra più un concerto che una serata elettorale, devo dire la verità, ma Macron ha un po' questa attitudine, questo vezzo anche di essere un po' idolo delle folle, se vogliamo, di avere anche uno stile molto giovane nell'approcciare la politica. Si attendono, ecco, ho chiesto poco fa ad alcuni volontari, si attendono tra i 20.000 e i 60.000 sostenitori, e voglio solo dire una cosa: Marine Le Pen ne ha convocati solo 1.000, già nei numeri si vede chi pensa poi effettivamente di andare a vincere stasera. Allora, Marine Le Pen, che in tutto questo attende l'esito del voto in un'altra parte di Parigi, l'Est, il Bois de Vincennes, in un noto ristorante piuttosto noto anche per la vicinanza a un famoso tempio buddista che diventa anche un luogo di ritrovo. Bois de Vincennes è il luogo dove molti parigini dell'Est in particolare trascorrono appunto il fine settimana al palco, e una scelta effettivamente ben diversa in quello che appare rispetto al cuore, al Louvre, fatta da Macron. Naturalmente dobbiamo attendere, per ora appunto sono delle indicazioni e ci sarà da attendere ancora un po'. La certezza, una delle certezze che si sta affermando in queste ore, è il numero dei votanti, un 74% indicato sulla fine, lo ricordiamo, molti seggi sono chiusi, gli altri chiuderanno alle 20, che riporta al dato dell'astensione, quindi superiore al 25%, addirittura al 1969. Quindi un francese su tre sostanzialmente ha deciso di non andare a votare. Allora, sentiamo, abbiamo tempo naturalmente per ricollegarci, lo faremo tra un po' con Parigi, per sentire insieme i risultati, anche per sentire alcuni commenti. Uno di quelli che il nostro Sergio Nava ha raccolto è di Enrico Letta, già primo ministro italiano dal 1 settembre del 2015, dirige la scuola di affari internazionali dell'Istituto Studi Politici di Parigi. Sentiamolo. Penso che Macron sia una persona che cambierà il volto dell'Europa, e lo dico per due motivi. Il primo motivo, per le cose che ha già fatto. È vero che è una persona totalmente nuova, 5 anni fa non c'era nemmeno, è appena arrivato, ha fatto però un'esperienza di lavoro importante all'Eliseo ed è stato ministro dell'economia, dello sviluppo economico per un certo periodo. In quel periodo ha sviluppato una linea molto intelligente di proposte di rilancio dell'Europa per completare ciò che non funziona, quindi per legare l'euro a dinamiche di crescita, perché se l'euro continua a essere legato alla decrescita, alla difficoltà, alla stagnazione, alla crescita della disoccupazione, l'euro rimarrà sempre impopolare. Le sue proposte insieme ai tedeschi e insieme ad altri sono sempre state molto in linea, non sono state accolte dagli altri europei, ma dal punto di vista di quello che lui già ha fatto, la linea mi sembra giusta. Quello che lui propone, quello che ha proposto in questa campagna elettorale, è straordinariamente europeista. Ha fatto una campagna elettorale, ricordiamocelo, con la bandiera europea sempre dietro le spalle. È una cosa oggi che cambia completamente il modo di essere, perché oggi quasi si ha paura a esporre la bandiera europea. Allora, naturalmente abbiamo parlato di elezioni che hanno un ampio profilo internazionale. Allora, tra le grandi capitali interessate c'è Mosca, la Russia naturalmente, e in Russia raggiungiamo Cristina Giuliano, che è capo dell'agenzia Aska News a Mosca, che è da un decennio, direi ormai, cittadina non russa, ma cittadina di Mosca, e quindi è la persona più adatta a darci anche un'idea di quello che è il sentimento dell'opinione pubblica e delle istituzioni intorno a questa elezione. Cristina, buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera Gigi, grazie a voi di avermi chiamato e di occuparvi di queste cose molto molto interessanti, anche perché riguardano anche il nostro futuro. Grazie Cristina. Allora, chi vota Mosca e perché? Vota naturalmente tra virgolette, ovviamente. Mosca ha già votato ormai da mesi, se non da anni, per Le Pen. Diciamo che ufficialmente il discorso ufficiale è quello che la Russia non si inserisce nei giochi politici altrui e quindi c'è totale equidistanza. Nella pratica l'incontro che c'è stato tra la Le Pen e Putin il 24 di marzo faceva già ben comprendere quale fosse lo schieramento. Contemporaneamente la stampa russa non è stata particolarmente lieve con Macron, l'ha definito in tutti i modi, l'ha definito il signor nessuno, ha strizzato l'occhio alle accuse, tra l'altro non sarebbero neanche accuse se fossero vere, ma diciamo ai rumors sull'omosessualità non dichiarata e negata tra l'altro da Macron, lo ha definito l'uomo di plastica, insomma gli ha detti di tutti i colori. Sta a vedere adesso stasera come andranno le cose, perché se andranno nel senso di Macron poi bisognerà capire come saranno i rapporti tra i due paesi. Ecco, al di là dell'aspetto personale, aiutaci a capire perché dici da anni questa scelta del campo lepenista. Beh, diciamo che la Le Pen è parte di quella folla di politici di opposizione che hanno sposato la causa russa dall'inizio delle sanzioni e dall'inizio della crisi ucraina. Anzi, forse la Le Pen è stata la prima, quella che ha cavalcato quest'onda di quelli che stanno con Mosca. È vero che c'è comunque sicuramente un background ideologico che unisce Le Pen all'attuale dirigenza russa. C'è anche però comunque una discreta quantità di interessi economici che prima legavano i due paesi, e dietro a questi interessi economici ci sono altrettanti uomini d'affari, cioè compagnie, di fatto business, che vorrebbero sicuramente dei rapporti un po' più caldi tra la Russia e la Francia e tra la Russia e l'Unione Europea. Insomma, la Le Pen rappresenta un possibile netto miglioramento. Sì, diciamo che sarebbe il ritorno della Mistral, se sicuramente ti ricordi appunto la nave francese che la Russia doveva comprare, poi sono inserite le sanzioni, si sono inseriti i rapporti non semplicissimi, alla fine la Mistral non è stata venduta alla Russia e quindi non è stato concluso il deal. Adesso invece, se vincesse la Le Pen, poi tu sai meglio di me quante possibilità ha, però nel caso in cui vincesse la Le Pen si potrebbe ritornare a parlare di tante cose, magari non della Mistral, però di tanti altri affari che sono rimasti in ballo. Insomma, un affare miliardario, in questo caso per una grande nave appunto tra virgolette congelata, destinata peraltro a delle operazioni a suo tempo e a dei porti del Mar Nero, una zona molto sensibile per Mosca. E per quanto riguarda l'opinione pubblica al di fuori delle istituzioni, queste elezioni scaldano in qualche modo o gli interessi dell'opinione pubblica legittimamente vanno altrove? Sì, sicuramente scaldano. Quello che mi ha colpito è stato un titolo di Marie Claire in russo che definiva Macron l'uomo ideale. Di fatto Macron, e questa è una cosa particolarmente buffa, contraddice qualsiasi luogo comune russo, compreso il fatto appunto della la moglie più grande di lui, che è qualche cosa che ribalta totalmente i cliché russi e di fatto apre a nuovi orizzonti, anche sul fronte un po' più sociale, un po' più da pettegolezzo. E poi contemporaneamente c'è sicuramente una certa simpatia verso questo ragazzo, perché di fatto è poco più che un ragazzo, sul fatto che sia un politico giovane, c'è tanta voglia di rinnovamento. In questo forse Macron incarna più della Le Pen questo desiderio. Nello stesso tempo però anche verso la Le Pen c'è una certa simpatia, proprio perché la Le Pen è stata una di quelli che non hanno chiuso alla Russia, quindi al di là dei giochi politici è comunque un'europea che ha continuato a dialogare con un paese che si è sentito molto isolato in questi anni. Quindi c'è anche questo. Sì, comunque c'è molta partecipazione, non parlano d'altro ultimamente. Grazie a Cristina Giuliano da Mosca, che ci ha raccontato dunque quali sono le attese, le aspettative della grande Russia. Staremo a vedere. Grazie Cristina. A voi. Gli speciali di Radio 24. 19:33 minuti, ancora un saluto da Gigi Donelli, dalla redazione di Radio 24. L'ora della scelta è il sottotitolo di tutte queste reti televisive francesi, che ovviamente sono tutte in diretta in attesa dello scoccare delle 20, quindi 26 minuti e qualche secondo, con una situazione che in particolare sul fronte dei sostenitori di Macron si scalda, e lo fa intorno a questo spazio davvero tra i più noti al mondo, intorno alla piramide del Louvre, l'ingresso del più visitato museo del mondo. Beh, l'Esplanade è diventata luogo di raccolta per quella che si attende essere la festa della vittoria di Macron, così indicano i sondaggi che nel frattempo vengono anche messi alla prova delle presenze, della partecipazione, la partecipazione che si riduce, un francese su quattro con la facoltà di andare al voto ha deciso di non farlo, così i dati del 60 di una partecipazione quindi che è bassa come non era dal 1969. Ma come dicevamo, Marine Le Pen attende dalle parti, o meglio al Bois de Vincennes, scelto come suo quartier generale un noto ristorante all'interno del parco. Dall'altra parte invece un grande palco che prima Sergio Nava ci descriveva un po' come un palco da rockstar nel cuore di Parigi. Sergio, uno degli aspetti che naturalmente caratterizza questo come il primo turno e di fatto il tempo presente della Francia è quello della sicurezza. Allora, come sono i controlli all'ingresso di questo spazio della festa di Macron? Io posso parlare della parte giornalistica perché non ho potuto vedere i controlli che stanno da un'altra parte, un po' più lontano della folla invece, che sta proprio continuando ormai copiosa ad affluire. Devo dire non eccessivamente invasivi, hanno soprattutto controllato con dei cani anti-esplosivo, che appunto la eventuale presenza di esplosivi nei nostri zaini e nel nostro materiale, e hanno controllato ovviamente anche ci hanno fatto anche un controllo corporeo, un po' come avviene negli aeroporti, però nessuno scanner o nessuna misura molto più serrata e speciale. Allora Sergio, resta un momento con noi, sentiamo insieme, e lo chiedo alla regia di sentire Pierre Brandet, che è il capo della sicurezza, portavoce del Ministero degli Interni, sentiamolo. Macron ha choisi l'Esplanade du Louvre, Marine Le Pen un restaurant connu du Bois de Vincennes. Ecco, in questo appunto servizio che è stato mandato in onda poco fa da France Info si ribadisce appunto l'attesa e si spiega che sono stati mobilitati 12.000 tra agenti di polizia e militari per la messa in sicurezza di queste due posizioni. Quindi Pierre Brandet dice massimo controllo sui filtri, controllo appunto sulle due posizioni, e spiega anche la scelta dei luoghi. Per verificare che le persone ne portano rien di dangereux su elle, bien évidemment. Quindi controlli sugli zaini, naturalmente controlli sulle persone, dice Brandesi, si chiederà, questo appunto accadeva circa mezz'ora fa, alle persone di mostrare che cosa hanno nelle borse, insomma quei controlli che ormai sono diventati standard. E spiegava anche che la scelta dei due luoghi da parte dei candidati, dai due contendenti, ovviamente sono stati misurati anche col Ministero dell'Interno. Da una parte può sembrare strano, il Louvre è così il cuore di Parigi, ma nello stesso tempo l'Esplanade è uno spazio fisicamente circoscritto, con le porte, gli ingressi che ovviamente sono stati liberati già dalle 18 totalmente dalla parte del flusso turistico. Sergio, quindi una città, tu dicevi, dalla parte giornalistica controlli abbastanza standard, di fatto ormai sono diventati standard in una città che ha vissuto appunto tempi molto duri ultimamente. Prego Sergio. Devo anche aggiungere, Gigi, che l'ho dato tra l'altro questa notizia in diretta alle 13, alle 13:05, nei 10 minuti c'è stata un'allerta improvvisa, ero in sala stampa. Questo all'improvviso, diciamo, i volontari dello staff Macron ci hanno in modo abbastanza obbligato, ci hanno detto uscite immediatamente, e ci hanno alla porta nel giro di pochi minuti, e quella sembrava, diciamo, una cosa molto rapida, poi l'allerta è stata data parecchio più tardi, almeno io mezz'ora dopo ancora non ero riuscito a entrare e me ne sono tornato in albergo, però c'è stata una piccola allerta sicurezza verso le 13, quando devo dire i controlli erano anche un po' più laschi, erano un po' meno serrati di quelli che ho trovato poi quando sono tornato verso il 17. Ecco, intanto vedo anche dalle immagini, gli schermi televisivi, i preparativi della festa contemplano anche la distribuzione del tricolore, quindi naturalmente blu, blanc, rouge, quindi blu, bianco e rosso, che vengono proprio estratti da una serie di scatoloni apparsi e posti all'esterno dunque dell'Esplanade du Louvre. Non so se li puoi vedere direttamente. Sergio? Sì, eccomi. Sì, no, dicevi. No, dicevo che c'è proprio il preparativo della festa, quindi che per adesso sta. Posso confermare che i volontari, prima che la gente entrasse, hanno posto tutta una serie di scatoloni con il kit del militante, magliette di vari colori, azzurra, gialla, rosa, un sacchetto con Emmanuel Macron presidente, tantissimi tricolori francesi. Quindi i militanti, i sostenitori Macron stanno invadendo questa piazza, prendendo appunto tutti questi gadget e quindi colorando ulteriormente la piazza con le magliette, le borse, le bandiere di Macron. Devo dire anche una cosa, so che tra poco avrà anche Mario Platero dagli Stati Uniti e forse potrà confermare, mi ricorda molto un po' la scena del 2008 quando ci fu l'elezione di Barack Obama a Chicago, e mi ricordo testimoniare in quel momento proprio un'invasione di folla festante, praticamente già ormai è certa di vincere, esattamente come vedo, certo, come sta accadendo adesso. Ovviamente lo ricordiamo per i nostri ascoltatori, questi due, diciamo, piazze, di cui una è una piazza vera, l'altro è un ristorante all'interno di un parco molto popolare che è stato quindi circoscritto, però chiaramente con un clima molto diverso, tant'è che c'è una presenza di telecamere anche molto più bassa. Dicevo, sono l'invito diretto a quelle che sarebbero le feste della vittoria. Ecco, da una parte ci credono parecchio, dall'altra evidentemente no, tant'è che già circolava qualche minuto, anzi circa una mezz'ora fa, l'ipotesi, la riflessione sull'importanza dei discorsi, perché discorsi della vittoria ma anche della sconfitta. Perché non dimentichiamolo che oggi la Francia decide quindi chi sarà il padrone di casa all'Elysée per i prossimi 5 anni, ma inizia immediatamente proprio con il discorso del vincitore dello sconfitto, della vincitrice dello sconfitto, tanto se vogliamo, come dire, mantenerci in equilibrio assoluto. La campagna è invece importantissima per il Parlamento. Entro il 18 di questo mese i partiti devono consegnare l'elenco, la lista dei propri candidati, e abbiamo una situazione abbastanza insolita in cui En Marche, quindi Macron, non ha di fatto un partito dietro, per cui deve costruire da zero quello che è il suo futuro, la sua organizzazione politica. Allora sentiamo, vediamo intanto dagli schermi che... Il ne pleut plus sur Paris ce soir. Sì, nel frattempo ci colleghi appunto di France Info che stanno mostrando, di fatto attendendo con lo sguardo sulle telecamere, ci informano che a Parigi non piove più, quindi situazione che si sta stabilizzando. Ecco, Sergio, sei con noi ancora? Ecco, no, dicevo, dal punto di vista dell'attesa, ho detto che alle 20, secondo le abitudini francesi, di solito appunto viene proprio dichiarato con, naturalmente non sono i dati definitivi, però ricordiamo per gli ascoltatori che alle 19 chiude un importante numero di seggi, alle 20 quella delle grandi città, insomma l'aspettativa è in 18 minuti di avere il volto dell'inquilino dell'Eliseo. Sì, e sarà anche molto più rispetto a due settimane fa, perché non sono più 11 candidati ma solamente due, e quindi tutto sarà molto molto più rapido. È chiaro che probabilmente Marine Le Pen riuscirà a raccogliere più consenso, un po' come è stato due settimane fa nella Francia rurale, nella Francia dell'Est, e le grandi città voteranno probabilmente in massa per Macron. Ti posso solo dire che stamattina mi sono regato un seggio nell'ottavo arrondissement, quindi non lontano dalle Champs-Élysées, anzi vicinissimo alle Champs-Élysées, e praticamente ho registrato un 100% di voti per Emmanuel Macron. Non sono riuscito a trovare una sola elettrice o un solo elettore. Sì, mi raccontavi che hai avuto un obiettivo problema a trovare dei sostenitori del Fronte Nazionale. Okay. Ecco, non li ho proprio trovati. Ok, Sergio, resta con noi. Allora, 19:44 minuti, sentiamo insieme le informazioni per chi è in viaggio, poi torniamo e ci colleghiamo con gli Stati Uniti, sentiamo appunto con Mario Platero com'è la prospettiva americana di questo voto, poi naturalmente torniamo a Parigi, tra pochissimo. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta... gli speciali di Radio 24. Ancora una buonasera da Gigi Donelli per questo appuntamento atteso, dunque questo appuntamento di portata europea. L'abbiamo detto, in queste settimane c'è una grande attesa, tanto che il tema che viene sollevato oggi, per esempio, Sole 24 Ore, in prima pagina un commento di Michael Spence, l'economista americano, che dice: non basta Macron a salvare l'Europa. Questo sottintende uno dei grandi temi di questo voto, di un voto che naturalmente è francese, ma che interessa appunto l'idea stessa di un'Europa. Ricordiamo Macron grande sostenitore in questa campagna elettorale, con una Marine Le Pen su una posizione opposta. Abbiamo sentito qual è l'aria, il sentimento in Russia, e ora negli Stati Uniti. Mario Platero, buonasera Mario. Eccoci, buonasera Gigi. Allora, la domanda che ho fatto anche prima a Mosca, intanto se la questione francese scalda l'opinione pubblica al di là degli addetti ai lavori negli Stati Uniti. Ma dunque la scalda, devo dire che forse Macron non salva l'Europa, perché ci vogliono altre persone per salvare l'Europa, per andare avanti per bene in Europa, però è già un gran passo avanti, e dal punto di vista americano, questo è il mainstream del pensiero americano, è che con la vittoria di Macron comunque la situazione si stabilizza. Quando dico mainstream intendo il pensiero, diciamo, più diffuso, il pensiero istituzionale, il pensiero aziendale, il pensiero di quelle persone di governo che hanno contribuito alla formazione del multilateralismo, e cioè anche i quattro, direi, pilastri della politica estera americana di adesso: il segretario alla difesa, il segretario di Stato, il segretario per la sicurezza interna, il consigliere per la sicurezza nazionale, McMaster. Sono quattro persone che hanno contribuito a cambiare l'opinione di Donald Trump. Donald Trump era partito contro l'Europa, era partito molto freddo, era partito per cercare delle relazioni bilaterali, e dopodiché devo dire, proprio durante l'incontro a due che c'è stato col nostro presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, in quell'occasione per la prima volta in modo aperto Trump ha detto: vogliamo un'Europa forte e un'Europa unita. Perché? Perché è nell'interesse americano che ci sia un'Europa solida, anche da avere come contraltare a una Russia che cerca sempre più di dilagare. Ecco, questa è la svolta importante dal punto di vista di Trump. Ecco. Ha capito che Putin avrebbe agito contro l'interesse americano, non per l'interesse americano. Quindi, insomma, la visione del voto è in una, come effettivamente è logico, in un quadro geopolitico globale, ma da un certo, dal punto di vista anche più emotivo, il nuovo establishment americano poi naturalmente è nuovo, appunto, e mentre Obama si è speso moltissimo in favore anche del candidato Macron, la sensazione è che ci fossero in realtà parecchi punti di possibile vicinanza con la Le Pen. È un'idea sbagliata? Allora, c'è la parte emotiva. Mario, scusa, abbiamo un problema adesso sulla linea che cerchiamo di risolvere in qualche momento. Intanto 19:48 continuano le agenzie. Ecco, se c'è un aspetto che sta montando ulteriormente, quello che riguarda l'astensione, addirittura le proiezioni per l'astensione viaggiano verso il 27%. Abbiamo iniziato un po' questo appuntamento dicendo che tra le caratteristiche si stanno affermando del voto c'è il fatto che un francese su quattro, ovviamente parlo di quelli aventi diritto al voto, hanno scelto di non farlo, e che riporta una percentuale così bassa non si vedeva dal 69, dalla vittoria di Pompidou, allora vinse col 58%. Ecco, questo è uno degli elementi che sembrano consolidarsi. Abbiamo di nuovo Mario? Eccoci sì, qua. Non so se mi sentite meglio. Sì, adesso va bene, Mario. Allora, c'è la parte emotiva sicuramente, e c'è una buona parte dell'opinione pubblica americana che è per il populismo e dunque sarebbe stata molto favorevole all'idea di una vittoria di Le Pen. Ma è una posizione minoritaria, questo non va dimenticato negli Stati Uniti d'America. È una posizione forte ma minoritaria dal punto di vista del paese, e lo è soprattutto a questo punto all'interno dell'amministrazione. Ti racconto un episodio. Donald Trump, forse sul piano emotivo, si sarebbe trovato meglio con la Le Pen, perché più o meno così la pensano allo stesso modo, hanno gli stessi atteggiamenti. E tant'è vero che ci fu un incontro, proprio durante l'incontro con Gentiloni, a un certo punto si informò sugli umori europei, sugli umori francesi, chiese: ma cosa pensate voi? E Gentiloni gli ha dato un quadro, gli diede un quadro molto preciso di quello che stava capitando, un quadro problematico naturalmente pensando anche all'Europa, ma un quadro che poteva essere più favorevole all'idea di una vittoria di Macron. E a quel punto Trump si è voltato verso Tillerson e gli ha detto: vincerà la Le Pen. Ma lo ha detto non come un auspicio, lo ha detto come il personaggio che fiuta la politica, capisce quello che sta capitando e immaginava che avrebbe vinto la Le Pen. Non ha vinto la Le Pen, a meno, non possiamo certo, ancora dirlo. È un po', però, insomma, è un po' prematuro, ma non molto, visto che mancano 9 minuti al momento. Però insomma, prematuro, appunto, non si può dire, ma diciamo che l'andamento, per quel che possiamo immaginare, è un andamento che dà la vittoria a Macron, e dunque con margini tra l'altro piuttosto importanti. Infatti. E questo va molto bene, ripeto, per il business americano, per le grandi aziende, per l'establishment della politica, perché ci si rende conto che l'Europa fa parte, l'Europa come un tutto, fa parte degli Stati Uniti d'America, fanno parte di quello stesso modello multilaterale di democrazie industriali avanzate che è il pilastro dell'Occidente, e dunque un'Europa unita serve, un'Europa come dire che si sfalda e che è più debole serve molto meno. Non interessa agli Stati Uniti in questo momento, al di là magari dei sentimenti personali. Grazie a Mario Platero. Tra i fatti, appunto, di questi minuti, mancano 9 minuti e 20 secondi allo scoccare delle 8. Infatti ci lasceremo, poi rientreremo in diretta insieme per vedere con il mondo di fatto qual è stata la scelta. Tra gli elementi che sembrano indicare la conferma del successo di Macron c'è un'importante comunicazione da parte dell'esplanata, del quartier generale di Marine Le Pen, quindi al Bois de Vincennes, che dice: Marine Le Pen è pronta a parlare subito dopo le 20. Traduzione possibile: gli sconfitti tendenzialmente parlano per primi e fanno una dichiarazione. Ripeto, una dichiarazione che non sarà banale, e non sarà neanche banale quella di Macron, perché Macron a quanto pare vincerà stasera, ma ha tutto da costruire il suo percorso, e lo dovrà fare convincendo e coinvolgendo i francesi, cioè la sua En Marche, il nome del suo gruppo, del suo partito, dovrà diventare una realtà, perché 10-11 giugno il voto in Francia, tra l'altro sarà qualche istante dopo il voto britannico. Bene, a quel punto Macron dovrà capire anche e dimostrare quale forza ha per governare un paese. Tutto questo quando mancano ancora 8 minuti. Abbiamo ancora Sergio Nava per un flash. Sergio. Sì, sventano le bandiere qui al Louvre, è già festa, potremmo dire, mancano pochissimi minuti, lo dicevi anche tu, ed è già ormai praticamente festa. Tra l'altro il flusso di sostenitori Macron sta incrementando esponenzialmente, sono già diverse migliaia qui davanti a me, continuano ad arrivare, stanno aumentando anche le bandiere europee, non solo quelle francesi, quindi anche un segnale di una vittoria simbolica, se vogliamo, dell'Europa dopo un anno orribile come il 2016. Macron porta un po' di speranza anche all'Europa. Sentiremo più tardi, anche ci collegheremo con i nostri colleghi, perché l'abbiamo detto, i nostri colleghi di Bruxelles, in particolare con Veda Romano, cioè questo voto francese amplifica e ritrova un interesse generale, collettivo, al di quella che potrebbe essere una fase di svolta, una fase di svolta rispetto alla profondissima crisi dell'Europa, che sia ben chiaro non è affatto finita e non finirà certo con questo voto. Da questo punto di vista il fondo che vi citavo del Sole 24 Ore di oggi di Michael Spence, che dice non basta Macron a salvare l'Europa, è anche un monito a un percorso ben complicato. Diciamola all'opposto, che l'ipotesi di avere una Francia appunto anti-europeista nella forma così esplicita, così netta che la candidata del Fronte Nazionale rappresenterebbe viceversa una clamorosa svolta e enorme difficoltà, ovviamente anche al seguito della Brexit. Sono le 19:54 minuti. Allora io direi che forse sentiamo, alziamo i nostri cursori e sentiamo pu passer les portiques de sécurité car on le sait le dispositif ce soir était très lourd, ça a créé beaucoup de la collega di François Info che naturalmente racconta la diretta all'evento torna ancora sul dispositivo di sicurezza, dice ormai le persone hanno superato e affrontato il dispositivo di sicurezza, insomma tutto è pronto. E allora noi ci salutiamo, ma torniamo insieme tra pochissimo all'interno del nostro GR e vedremo insieme attraverso i nostri schermi, attraverso le nostre voci, appunto, chi è il prossimo presidente della Repubblica Francese. A tra pochissimo. Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Gli speciali di Radio 24. Emmanuel Macron è dunque il nuovo presidente della Repubblica Francese. Andiamo subito dunque alla festa dell'Esplanade du Louvre con il nostro inviato Sergio Nava. Sergio. Sì, è un boato, come potete immaginare, un enorme boato ha accolto la notizia quando sui due megaschermi che ci sono qui proprio sull'Esplanade du Louvre è stata proiettata l'immagine di Macron presidente, 75,1%. 34 alla Le Pen, così ha detto France 2, poi ovviamente andranno calibrati, chiaramente è stata accolta con enorme gioia dai sostenitori che ora aspettano chiaramente anche il discorso e poi l'arrivo di Macron. Ricordiamo che Macron farà un discorso da suo quartier generale, 15° arrondissement di Parigi, sud-ovest di Parigi, e poi verrà qui a fare appunto il bagno di folla. Macron, che è il più giovane capo di Stato francese da Napoleone, pensate, senza un partito, quindi una vittoria assolutamente storica, e fa anche impressione vedere un uomo senza un partito dietro avere tutte queste migliaia di militanti in festa che festeggiano l'elezione di un uomo praticamente arrivato dal nulla. Ecco Sergio Nava, resta con noi, ti aggiorno anche in diretta come faccio con gli ascoltatori. Abbiamo avuto poco fa la comunicazione, quindi formale, 20:45 il discorso Macron e prima, tra poco, anzi probabilmente tra pochissimo, la sconfitta Marine Le Pen. Marine Le Pen 35%, come abbiamo detto, insomma, al di là dell'esigenza di prendere le informazioni, i numeri in particolare, con cautela, la scelta dei luoghi in cui appunto raccogliere i propri sostenitori, da una parte il cuore di Parigi intorno alla piramide del Louvre, che ora vediamo nello sfondo delle telecamere appunto di tutto il mondo, e dall'altra parte un ristorante al Bois de Vincennes, aveva dunque anche indicato da parte dei due sfidanti quale fosse il loro spirito e il loro morale. Sergio, sei riuscito nel frattempo a entrare in questo spazio o ormai è... Io mi trovo un po' ai limiti, anche ovviamente per riuscire ad ascoltarvi, perché poi certo, all'interno è molto difficile riuscire ad ascoltare voi da Milano, però sono all'interno, in mezzo praticamente ai militanti, almeno quelli che stanno arrivando e che continuano ad arrivare, perché non è ancora finita la piazza, non ha ancora finito di riempirsi, stanno continuando ad arrivare, quindi continuano ad entrare nello spazio della festa, dove ci dicevi c'è un grande palco in attesa appunto della ormai celebrazione formale. Sì, perché la vera festa poi sarà quando arriverà Emmanuel Macron, probabilmente arriverà anche relativamente presto, come dicevi tu Marine Le Pen dovrebbe parlare a breve, seguirà poi la dichiarazione ufficiale di Macron dal quartiere generale e poi sarà qui per il vero e proprio bagno di folla, quindi probabilmente sarà poi qualcosa anche che avverrà non tra moltissimi. Ecco, tra l'altro, ancora per darci qualche numero, 74% dei votanti, la vittoria col 65% è una vittoria larga, ma tanto per dare appunto comparazioni precise, nel 2012 Hollande aveva vinto addirittura un 51,6 contro il 48,3 di Sarkozy, nel 2007 Sarkozy aveva vinto col 53% contro Ségolène Royal, e per arrivare a risultati così ampi, anzi più ampi, bisogna risalire a un altro Le Pen, alla sconfitta di Jean-Marie, dunque il padre di Marine Le Pen, che sfidò al ballottaggio e a suo tempo fece davvero scalpore dal 2002 Chirac, e Chirac ne uscì vincente con l'82%. L'82% allora fu l'effetto di questa grande risposta della Francia democratica rispetto al fronte nazionale. Ora, diciamo che oggi Marine Le Pen ha sostanzialmente raddoppiato i voti che suo padre, leader dello stesso partito, poi con tutti i cambiamenti naturalmente che sono avvenuti in questi 15 anni, ha ottenuto appunto nel 2002. Insomma, un dato che rimane molto importante, quello di Marine Le Pen. Sergio. Sì, assolutamente, perché vuol dire che il Front National effettivamente è riuscito a diventare un partito più ampio, più di mainstream, se vogliamo, che era un po' l'obiettivo che Marine Le Pen si è prefissa, rivoluzionando, cambiando volto al partito, cioè che dice non ha cambiato in realtà la sostanza, sempre di estrema destra rimane, sempre insomma fuori dal fronte repubblicano rimane, però chiaramente in questo è un mezzo successo, non completo, anche perché si diceva che per poter dire che Marine Le Pen aveva raggiunto comunque una sconfitta importante, avrebbe dovuto quantomeno superare la soglia del 40%, ebbene da lì sembra ancora abbastanza lontana, quindi diciamo una sconfitta onorevole, però non una sconfitta che lascia intravedere un futuro al governo per il Front National. Vi aggiungo che qui su France stanno già trasmettendo, sono già ospiti i probabili anche ministro, comunque uomini forti del governo Le Pen o del governo Macron o dell'entourage di Emmanuel Macron, tra loro Ségolène Royal, attuale ministro dell'ambiente, e François Bayrou, che è il leader di Modem, partito centrista, candidato nelle precedenti presidenziali come candidato presidente, quindi già stanno un po' anche sulle principali televisioni francesi, stanno emergendo i volti di quello che sarà un po' l'ossatura del futuro governo o comunque amministrazione Macron. Assolutamente, anche perché appunto lo abbiamo detto, c'è un tutto un percorso che inizia questa sera da parte di entrambe i leader, un percorso che deve arrivare all'inizio del mese di giugno con quello che è il voto, l'importantissimo a questo punto voto, e lo è in generale, delle legislative, ma in una situazione decisamente particolare, poiché abbiamo un presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, che deve costruire tutta quella che è la solidità del suo percorso presidenziale nelle elezioni. Lui di fatto non ha deputati, e quando si andrà a votare a giugno, cioè ce li ha di fatto perché poi molti sono passati, ma davvero sarà una tappa importantissima. E adesso ci ha raggiunto in studio il direttore del Sole 24 Ore, il nostro direttore Guido Gentili. Buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Allora, i numeri, abbiamo fatto il punto, 65%. Attenzione, forse abbiamo, proviamo a sentire. La continuité. J'ai appelé Monsieur Macron pour le féliciter Marine Le Pen, de son ovviamente. Élection, et parce que j'ai à cœur l'intérêt supérieur du pays, je lui ai souhaité de réussir face aux immenses défis auxquels la France est confrontée. Ho chiamato dunque Macron, gli auguro di riuscire di fronte alla grande sfida, immensa anzi. Accorder leur voix et leur confiance, ainsi que les militants qui m'ont soutenu et accompagné tout au long de cette campagne. Ringrazio naturalmente i militanti che mi hanno sostenuto. Nicolas Dupont-Aignan e son mouvement Debout la France, ainsi que ringrazio Nicolas Dupont-Aignan che ha sostenuto quello che sarebbe stato il primo ministro candidato della Le Pen. Par ce résultat historique et massif, les Français ont désigné l'Alliance patriote et républicaine comme la première force d'opposition au projet du nouveau président. Risultato storico, alleanza, dice, Fronte Nazionale e Repubblicani come prima forza di opposizione. Monsieur Macron se sont discrédités elles-mêmes et ont perdu toute légitimité à représenter une force d'alternance ou même d'opposition crédible. E qui di nuovo un colpo su quelle che sono appunto le forze dell'opposizione. Un majeur de la vie politique française par l'élimination des partis anciens. I vecchi partiti, quelli che noi chiamiamo tradizionali, dice, questa è l'eliminazione dei partiti anziani. Autour du clivage entre les patriotes et les mondialistes. C'est ce grand choix qui par circonscription sera soumis aux Français lors des législatives. Ecco, legislative, patrioti o mondialisti. Marine Le Pen segna in questi termini di fatto il confine del suo impegno politico e di quello che sarà appunto la corsa che apre con questo discorso per le legislative. Allora, direttore, primi commenti di questa giornata. Ma i numeri ci dicono più o meno quello che ci aspettavamo, e quindi più o meno rispecchiano fedelmente le percentuali previste dalla vigilia, le aspettative anche dei mercati, del mondo dell'economia, e quindi è una vittoria netta che ovviamente fa tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda il destino dell'Europa, perché sappiamo che queste elezioni erano, ha ragione, giustamente viste come una sorta di referendum sull'esistenza almeno di questa Europa, e quindi sono andate sotto questo profilo bene, e tra l'altro in un paese che noi sappiamo aveva approvato con solo il 51% allora il trattato di Maastricht, e successivamente nel 2005 aveva bocciato la Costituzione europea, quindi non era un passaggio facile. Abbiamo visto due candidati in corsa che hanno lasciato alle spalle anche il passato della forma partito, perché ovviamente avevamo due formazioni completamente diverse che per nulla assomigliano a quello che erano i partiti che abbiamo visto per decenni nel passato, e quindi anche questo è un segnale di novità. Ce l'ha fatta un giovanissimo candidato, Emmanuel Macron, alla presidenza, diciamo, della Repubblica, e quindi nemmeno quarantenne, e quindi anche questo è un segnale fortissimo di novità, e quindi ora staremo a vedere. Ci sono ovviamente c'è l'Assemblea Legislativa, ci sono le elezioni per l'Assemblea Legislativa, anche questo sarà un passaggio importante, ma certamente oggi, diciamo, ripartiamo in un modo, diciamo, che era quello previsto, era quello anche sperabile, però insomma la partita comincia ora. Ho citato ovviamente la nostra apertura, Francia, i mercati votano Europa, e dunque il rialzo delle borse, gli spread in calo sulla sconfitta di Le Pen che si è verificata, ma segnalavo anche nel commento, tra i commenti, il fondo di Michael Spence che dice non basta Macron a salvare l'Europa, insomma un tema che è tutt'altro che risolto. Beh, certo, un tema rimane, il tema, diciamo, di come adeguare l'Europa alle esigenze che hanno indicato i cittadini stessi europei rimane del tutto aperto. Abbiamo all'opera, ci sarà un Macron che è nelle vesti di un rifondatore, lui ha detto, dell'Europa, e il cammino è lungo. Lui ad esempio pensa anche all'elezione diretta del Presidente della Commissione europea, e ha un tipo di europeismo secondo me molto pragmatico, perché non è un, diciamo, un propugnatore del più Europa fine a se stesso, ma insomma ha delle idee in testa molto precise. Ha per esempio, diciamo, l'idea di rafforzare molto l'asse franco-tedesco, quindi il tradizionale accordo che ha retto poi sostanzialmente, diciamo, le sorti dell'Europa fin qui, adesso era un pochino più sbiadito. Lui lo vede invece come un punto di forza, su questo troverà un terreno fertile anche a Berlino in questo senso. Pone anche dei problemi all'Italia, perché ovviamente adesso tutti si dicono, come dire, ci sarà la rincorsa per dire abbiamo vinto tutti, tutti siamo macronisti, siamo tutti macronisti, se si dice così a me. Poi in realtà ci pone anche dei problemi, per esempio un prevedibile rafforzamento dell'asse franco-tedesco ci ovviamente ci pone un problema nel senso del nostro posizionamento, quindi stiamo dentro questa ipotesi e pensiamo invece di fare dei contestatori un po' velleitari fuori da questo, immaginando chissà quale alleanze, e se ci stiamo dentro, ci stiamo dentro, diciamo, con i piedi ben piantati per terra, anche per difendere l'interesse del paese, come, diciamo, Macron ha indicato per quanto riguarda la Francia, perché poi parla, ovviamente lui è molto europeista, ma dice che per esempio occorre rispondere in modo vigoroso anche sul tema delle politiche industriali, per esempio al dumping cinese, che bisogna proteggere i campioni nazionali, posizione tradizionale della Francia. Quindi insomma certamente è un grande europeista, però lo è con i piedi per terra, con i piedi per terra e tutti gli interessi francesi da questo punto di vista. Io prima dicevo che comunque il 35% della Le Pen, sconfitta ovviamente netta, due francesi su tre hanno scelto il suo avversario, è comunque il doppio di quello che seppe fare suo padre appunto 15 anni fa. La frase che Marine Le Pen dice nel suo discorso di riconoscimento della vittoria del suo avversario, dice tra l'altro: oggi abbiamo costruito una nuova asse coi repubblicani. Ora, questo naturalmente ci sarà da discutere, perché molti repubblicani francesi non pensano affatto questo e lo sappiamo, però obiettivamente si è creato una discontinuità, insomma. Ne parlavamo 15 giorni fa, il Fronte Nazionale è entrato per esempio nei corpi universitari, nelle strutture universitarie. Un percorso è stato fatto. Ma certamente, come dicevi te, è un grande elemento di discontinuità, e quindi è un elemento sul quale realisticamente tutti devono fare i conti. E quindi è anche, diciamo, l'Europa tira un sospiro di sollievo, ma non è che con questo significa che allora non deve rispondere alle esigenze, ad esempio sul tema della sicurezza, dei migranti, che i cittadini europei hanno messo sul tavolo a tutti i protagonisti e a tutte le leadership che guidano l'Europa, e quindi dovrà dare delle risposte concrete, perché altrimenti, diciamo, si creeranno nuove condizioni per vedremo l'eurobarometro indicare nuovamente posizioni molto contrarie all'Europa. Un altro aspetto che credo valga la pena sottolineare, poi naturalmente ci sarà spazio nelle pagine del quotidiano, del web e naturalmente attraverso la radio, è il fatto che il voto delle grandi città e della grande provincia, la Francia lo è più di altri paesi, un'enorme provincia, è segnata da differenze molto forti. Quindi se il nostro Sergio Nava stamattina ha avuto materialmente fatica a trovare un sostenitore del Fronte Nazionale per fare un'intervista, perché era nell'ottavo arrondissement di Parigi, non significa che i problemi, le paure di una cosiddetta Francia profonda appunto svaniscono con questo voto. Insomma, il ricordo di Trump e di tante altre elezioni, della Brexit, è qui con noi. Esatto, e tra l'altro abbiamo, citavi Brexit, è giusto citarlo, e anche la visione innovativa che ha Macron su questo tema, perché lui per esempio su Brexit ha detto: non pensiamo che sia un problema solo del Regno Unito, questo è un problema per l'Europa, perché è un segnale d'allarme molto preciso che investe tutta l'Europa nel ragionamento su, diciamo, i rischi anche di un'eccessiva globalizzazione. e quindi abbiamo a che fare con problemi nuovi e dobbiamo affrontarli con strategie nuove politiche. A proposito di Brexit, solo l'immigrazione e le tasse fra le promesse polemiche e qualche ambiguità, i temi al centro della campagna elettorale britannica un mese esatto dal voto politico anticipato dell'8 giugno. Un'agenzia di qualche istante fa che mi è passata sotto gli occhi per ricordarci che da una parte abbiamo detto quindi legislative francese, tre giorni dopo, l'8 giugno un voto britannico pieno di, anche lì, di curiosità quantomeno e di interesse. Poi insomma Londra, visto anche dal Sole 24 Ore, non è proprio una capitale come tutte le altre. No, infatti questa non è un, e non è nemmeno un divorzio come tutti gli altri, e quindi sarà interessante vedere. Anche qui io credo che politicamente il risultato sia abbastanza prevedibile, però certamente questo è un problema grande per il Regno Unito ed è un problema grande anche per l'Europa, e quindi è un anno questo, diciamo, che da sotto questo profilo, il profilo politico, ci fa vedere un'infilata di appuntamenti che sono, diciamo, decisivi, perché abbiamo visto prima l'Olanda, adesso abbiamo visto la Francia, decisiva per le sorti dell'Europa. Adesso vedremo il risultato delle elezioni a Londra, in Gran Bretagna, e vedremo poi soprattutto a settembre quello che sarà l'appuntamento tedesco, l'appuntamento finale. Però devo dire che oggi si è scritta una pagina di questa annata elettorale, diciamo, si è scritta una pagina importante. Grazie a Guido Gentili, naturalmente, grazie direttore, grazie e vi invito, mentre sentiamo probabilmente sullo sfondo, grazie alla nostra regia, quelle che sono anche le emozioni del dopo voto, sentiamo e dovremmo avere anche con noi il nostro Sergio Nava. Naturalmente vi ricordo che queste ore importanti appunto per la Francia, ma come abbiamo ampiamente detto per l'Europa e l'interesse che anche manifesta, che si raccoglie intorno a queste elezioni, lo dimostra. Potete poi ritrovare tutto e continuare a trovare sui siti appunto del sole24ore.com, su radio24.it e naturalmente attraverso appunto i nostri appuntamenti. Adesso abbiamo ancora Sergio Nava che a questo punto dovrebbe essere in pieno festeggiamento, visto dov'è. Sì, si continuano a sventolare le bandiere, si continua a aspettare il discorso di Macron, una nota di colore, è stato letteralmente oscurato il discorso di Marine Le Pen, l'ho potuto solo attraverso voi da studio, lo facevate ascoltare, perché qui proprio non si è sentito, è stato totalmente oscurato. Sì, è stato un intervento piuttosto breve, con diciamo un piglio da sconfitto, diciamo. Poi Marine Le Pen, sappiamo, è una donna molto ferma nei suoi propositi, ha approfittato, tra virgolette, per tirare un paio di stilettate anche ai suoi avversari, ma insomma tutto nell'ambito della legittimità. Avevamo sottolineato un aspetto che riteniamo interessante, che la Le Pen ha insistito su questo cambiamento storico e dell'avvicinamento quindi di una parte della destra repubblicana. L'abbiamo specificato, non è il partito dei repubblicani che invece è rimasto ben distante, ma sicuramente un'area di cambiamento che lei ha rivendicato. Senti Sergio, adesso che succede lì, nel senso che è stata confermata, o quantomeno viene confermata l'intervento delle 20:45? Io non ho indicazioni diverse in questo senso. In questo momento è salito sul palco un presentatore della serata, che era salito proprio durante il discorso della Le Pen per dire che tutti gli occhi del mondo sono qui sul Louvre. Faccio un po' fatica, devo dire la verità, a capire cosa sta accadendo, perché stanno in questo momento reinquadrando la piazza. Diciamo che parte probabilmente un momento musicale, o comunque diciamo di svago, in attesa poi del vero e proprio un momento di tregua, mettiamola così Sergio. Momento festeggiamento. Lo dicevamo, Macron ha anche uno stile molto giovane nell'approcciare queste manifestazioni, quindi musica è un po', come dire, manifestazioni che assomigliano anche a dei concerti. Quasi, certo, proprio perché questo è stato anche il suo stile. In un concerto, in questo caso in una posizione, una location davvero spettacolare. Siamo quindi nell'esplanade, nella grande spianata del Louvre, con tutti annessi e connessi simbolici che vogliamo. Si vede da tutte le parti e viene da sorridere, perché mi riferisco alla piramide, la piramide del Louvre. Forse qualcuno un po' più grande tra gli ascoltatori ricorderà la polemica enorme che fu fatta quando nell'89 dell'81, Mitterrand decise di cambiare quello che era appunto lo storico ingresso del Louvre, grida allo scandalo, scandalo, scandalo. Addirittura Mitterrand, peraltro che si prestava a questo, venne accusato di volere appunto farsi re e di dovere anche portare una piramide all'interno di questo spazio. Beh, nell'89 fu finalmente aperta e oggi è curioso come da qualsiasi prospettiva le telecamere inquadrino questa zona, insomma la piramide è al suo centro, uno dei luoghi credo più frequentati al mondo, visto che se tanto mi dà tanto il Louvre è il museo più frequentato al mondo, si entra di lì per lo più e ricordo oggi in realtà è stato chiuso alle 18, tutti fuori turisti per questo particolarissimo evento. Eccoci qua allora, sentiamo magari anche i commenti, qui ci sono delle interviste ai sostenitori. E questi elementi che non assolutamente pas oublier lorsqu'on passerà au travail pour le législative. On a vu che questa campagna aveva été particulièrement. Allora, in questo caso in realtà sono delle interviste che vengono realizzate ai volontari della campagna di grande successo di Macron. Intanto non mancano naturalmente i commenti internazionali. Allora Francia May, quindi Theresa May, si felicita con Macron, priorità comuni. Donald Tusk ovviamente entusiasta, Tusk quindi uno dei leader dell'Europa contemporanea che dice hanno scelto la libertà e non le fake news, ma anche un aggiornamento sui dati di voto, cioè 11 milioni mi hanno votato, dice Marine Le Pen, e questo obiettivamente è un risultato storico, sicuramente dal punto di vista del Fronte Nazionale erano 7,5 nel primo turno e 8,8% dei francesi invece hanno pensato di votare scheda bianca, scheda nulla, e questi numeri poi saranno anche i numeri che ritroveremo in quello che è il percorso che abbiamo detto inizia questa sera e che porterà alle importantissime elezioni legislative. Sergio, un minuto ancora se sei con noi. Sì, sono con voi e infatti stavo cercando di chiedervi la linea perché non so se lo sentite, ma siamo in piena fase concerto, quello che vi avevo preannunciato è arrivato, vi faccio sentire brevemente. Sergio, non ti sento più, pronto? Ecco, volevo farvi sentire quello che sta avvenendo qui. La festa è iniziata, direi. La festa è iniziata e si attende che parli Macron, ma siamo già in piena festa di vittoria. In piena festa della vittoria quando sono le 20:28 minuti 40 secondi. Allora facciamo così, visto che tra qualche momento abbiamo naturalmente il nostro clock, il nostro consueto appuntamento prevede gli spazi per la pubblicità, per le nostre comunicazioni, prendiamo un attimo respiro, ma soprattutto vi anticipiamo che nella speranza della puntualità tra 14-15 minuti Emmanuel Macron dovrebbe parlare a tutti quanti, a tutti i suoi elettori, ma attraverso di loro i suoi sostenitori, quindi nella grande festa della vittoria e naturalmente a tutti quelli che sono interessati a sentire le prime parole ufficiali del prossimo Presidente della Repubblica. Ci risentiamo tra poco. Gli speciali di Radio 24. Sono le 20:34 minuti, ancora un saluto da Gigi Donelli al microfono, dalla redazione di Radio 24, naturalmente tutta quanta, da Andrea Roccabella in regia, da Barbara Bianchi in assistenza questa sera e da Sergio Nava con cui ci colleghiamo subito all'esplanata, alla spianata del Louvre. Sergio. Sì, buonasera, lo state ascoltando, siamo in una piena fase dance, piena fase festa, in attesa delle parole di Emmanuel Macron. Partita 10 minuti fa la festa musicale, diciamo, dell'Esplanade del Louvre, le migliaia se ne attendevano fino a 60.000, difficile dire ora quanti siano, però queste migliaia di sostenitori di Macron stanno ballando, sventolando bandiere appunto sulle note di questo. Aspettando dunque il presidente. Sergio resta con noi ovviamente, tra uno scratch e l'altro delle linee telefoniche che qui impazziscono ovviamente nelle grosse folle, ci colleghiamo invece, visto che abbiamo parlato più di una volta in questi minuti, in queste ore della vittoria europea, Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore a Bruxelles. Beda, buonasera innanzitutto. Buonasera. Allora, Bede, è la vittoria dell'Europa, come già si titola in parecchie agenzie? Per certi versi sì, naturalmente la Francia ha dovuto decidere fra due visioni molto diverse del paese, la visione più nazionalista e più reazionaria che era quella di Marine Le Pen e una visione più aperta, più solidale e più europea che era quella di Emmanuel Macron. Ha vinto Macron e quindi per certi versi ha vinto la Francia più europeista. E naturalmente a Bruxelles c'è sollievo e soddisfazione. Le prime reazioni ci sono già state, addirittura il Presidente della Commissione europea ha pubblicato su Twitter la lettera che ha inviato al nuovo Presidente francese ed è una lettera in cui Jean-Claude Juncker si congratula naturalmente con il nuovo Presidente, ma soprattutto si augura una collaborazione fruttuosa tra i due uomini politici in vista di un rilancio dell'integrazione europea. Da Macron diventa anche in qualche modo un po' l'ancora a cui tutti potrebbero attaccarsi, nel senso positivo del termine, nelle prossime settimane. È positivo naturalmente perché a questo punto i due grandi paesi europei dovrebbero essere governati da governi più o meno europeisti. Ci sono le Francia elezioni Germania. In Germania. Certo. Sì, Francia e Germania. Ci sono le elezioni in Germania in settembre. È probabile che vinca la signora Merkel, anche se naturalmente c'è la possibilità che vinca Martin Schulz, che è candidato socialdemocratico. Quindi ma nei due casi sono due europeisti e quindi l'idea della Commissione europea e del Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk è che grazie a questa forza nuova europeista nei due governi principali dell'Unione si possa in un modo o nell'altro rilanciare l'integrazione europea. Ecco Beda, secondo te la lezione del 35% del voto a Marine Le Pen, quale potrebbe essere per l'Europa? Beh, che c'è una fetta importante dell'elettorato francese che è assolutamente delusa dalle politiche dell'ultimo ventennio, direi. A questo punto, dal 95 in poi, in altre parole dall'arrivo di Jacques Chirac all'Eliseo nel 1995, è una fetta molto importante dell'elettorato, significa naturalmente che il Fronte Nazionale ha messo radici in Francia, non è più in questo momento un partito isolato, non è più un partito estremista nel senso più radicale del termine ed è naturalmente una minaccia per la futura stabilità del paese perché, come diceva recentemente un alto funzionario europeo qui a Bruxelles, in privato non c'è bisogno di autocompiacimento in questo momento. La vittoria di Emmanuel Macron è una vittoria di un centrista europeista ma con un risultato elettorale che comunque sia lascia trasparire una forte insoddisfazione dell'elettorato francese in uno dei paesi più importanti dell'Unione Europea. Grazie a Beda Romano, lo ricordo naturalmente corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles e a Bruxelles sarà uno, appunto a Bruxelles, su Bruxelles convergeranno tante delle reazioni di queste ore ma anche delle decisioni dei giorni a venire. 20 e 40 minuti, anticipiamo di qualche momento il nostro clock tradizionale, sentiamo insieme le informazioni per chi è in viaggio, se il nuovo presidente della Repubblica Francese Macron sarà puntuale, infatti tra 5 minuti è atteso il suo intervento di fronte a una folla festante. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presento gli speciali di Radio 24. Emmanuel Macron ha dunque vinto la sfida, il ballottaggio per l'Eliseo, 65% contro 35%, i dati appunto che naturalmente non sono ancora definitivi, un risultato netto, dall'altra parte un risultato storico lo definisce Marine Le Pen che pochi istanti fa comunica attraverso il numero 2 del suo partito, Florian Philippon, una decisione importante che sarà destinata sicuramente ad avere dei risultati risvolti politici importanti in Francia e non solo. La notizia è questa: il Fronte Nazionale non avrà più lo stesso nome. Lo ha annunciato il numero due del partito di estrema destra, Florian Philippot, parlando ai microfoni di TF1 dopo la sconfitta di Marine Le Pen nelle elezioni. Vi ho detto che pochi minuti fa, anzi ormai 40 minuti fa, l'accettazione della sconfitta, il breve discorso di Marine Le Pen, lei ha detto che in questo 35% che comunque si è portato a casa c'è anche il segno della prima grande apertura alla Francia repubblicana, un'espressione che indica naturalmente la volontà del Fronte Nazionale di uscire da quella posizione di così specifica e così politicamente difficile, che 15 anni fa fece sì che suo padre fosse sconfitto con un 82% da Chirac, suo padre il 18%. Oggi Marine Le Pen si assicura un 34%. Sentiamo un po' la festa e sentiamo Sergio Nava. Sergio, sei con noi? Ah, ecco, ora vi sento, sì, è andata via la linea per un attimo. Quello che vi posso dire è che si sta ora aspettando chiaramente il discorso di Macron, e quello che dicevi tu poc'anzi, cioè la fine del nome Front Nazionale, sicuramente una notizia in qualche modo storica, perché significa che l'ala più formatrice all'interno dello stesso Front Nazionale, quella che ha premuto negli ultimi anni per staccarsi dal passato, diciamo, più di estrema destra, legato al nome di Jean-Marie Le Pen, ha dato veramente l'ultima e definitiva sferzata. Si è capito in qualche modo che si poteva puntare alla vittoria, ma il nome, la tradizione, la storia pesavano ancora troppo, e quindi probabilmente si è deciso di dare l'ultima e definitiva sferzata per portare il Front Nazionale all'interno del mainstream dei partiti francesi. Tutto questo accade, come dire, con estrema rapidità, perché lo ricordiamo per l'ennesima volta, manca di fatto meno, anzi no, 3 giorni, più di un mese, quindi siamo in realtà nei 33-34 giorni al voto delle legislative, che sarà un altro banco di prova molto importante, tanto per Le Pen che ovviamente per Macron. Esatto, purtroppo ci ho sentito molto male perché la linea ora ha qualche problema, però sì, ricordiamo che ci sono delle elezioni importanti anche perché Macron, lo dicevi anche tu prima, non ha un suo partito, a Marche è nuovo, ha praticamente un anno di vita, però ha presenze interessanti, non dimentichiamolo questo, con una parte importante del Partito Socialista, perché di fatto Hollande è stato anche un po' Machiavelli, così lo ha definito il quotidiano di centrodestra, Le Figaro, il Machiavelli dietro anche alla figura di Macron, quello che ha spinto poi soprattutto le ultime settimane per portarlo all'Eliseo come un po' come suo erede. Quindi comunque a Marche ha delle convergenze interessanti con i socialisti, partito in crisi, in difficoltà, ma comunque storico, ha delle convergenze evidenti con i centristi di Bayrou, che poco fa su France diceva abbiamo lanciato un messaggio importante all'Europa, un messaggio importante al mondo, e quindi e potrebbe avere comunque anche delle convergenze di un po' forse più di si possono cercare anche con i repubblicani, soprattutto dopo l'uscita di scena di Fillon, che era l'ala più a destra dei repubblicani. Quindi sicuramente è una pagina tutta da scrivere, quella della politica francese. Quello che sicuramente Macron dovrà riuscire a fare nel prossimo mese sarà quello di avere una maggioranza parlamentare, perché una coabitazione con un primo ministro ostile chiaramente renderebbe impossibile il suo quinquennato o comunque i primi anni di mandato. Parlavo ieri con l'unica italiana nello staff di Macron, Caterina Vanza, che è appunto una nostra connazionale, diceva da mercoledì. Ecco, da mercoledì siamo caduti letteralmente su un il più bello, avremmo detto. Da mercoledì di sicuro e direi da ora, per come si è mossa Marine Le Pen, non ha decisamente intenzione di perdere un secondo, e così come obiettivamente e come è ragionevole che sia, non hanno intenzione di perdere un secondo tutti alleati e avversari di Macron, perché ricordiamo, la notizia del giorno è che il nuovo presidente della Repubblica Francese si chiama Emmanuel Macron, che ha vinto con il 65% dei voti, quindi con un voto netto che è più alto di quello appunto di Hollande e di Sarkozy nelle due tornate precedenti, ma che deve completamente costruire la sua forza attraverso delle elezioni che sono di là a venire. Sergio Nava? Ecco, sì, sono ritornato. Mercoledì, dicevi. Sì, dicevo appunto che da mercoledì di fatto lo staff di Macron si rimette testa bassa al lavoro, questo ve lo possiamo dire appunto, dicevo, da fonti proprio interne, dalla nostra connazionale che lavora nella parte, diciamo, più di opinion poll e sondaggi e studio dei sondaggi. Caterina Avanza ci diceva fra tre giorni si riparte, perché il tempo è poco e perché soprattutto c'è anche un'esperienza dietro, non è un partito radicato come i socialisti o i repubblicani che hanno decenni alle spalle di storia politica, ma deve ora conquistarsi una parte importante e anche probabilmente poi delle alleanze in Parlamento che possono essere con i socialisti, sicuramente con i centristi, ma i centristi di Modem è un partito molto piccolo, quindi non basta, certo. Magari con gli ecologisti. Insomma, tutto da costruire. Tra l'altro, Sergio, segnalo anche che sono confermati i dati dell'astensionismo, oltre 25%, quindi record storico dal 69, record storico assoluto di schede bianche, il 12%, qui stiamo parlando di più di 4 milioni e 400 mila voti sui 40 totali degli aventi diritto. Quindi i numeri che il sistema, l'organizzazione proprio dello Stato in Francia ci mostrano questa sera sono quelli ovviamente di una formazione chiara, il doppio turno appunto alla francese ha questa caratteristica. Sul fronte invece della composizione e ricomposizione delle alleanze la faccenda sarà molto diversa. Bene, sono le 20:49, quindi come prima cosa sappiamo che il Presidente della Repubblica neo vincitore eletto è un ritardo, ma forse solo di un po'. Sergio, non si sono tracce ancora della sua presenza, o sì? Ecco, non c'è ancora, devo dire, non ci sono ancora tracce di un suo discorso, anche tra l'altro non lo dovrebbe fare qui in Dovrebbero vederlo sullo schermo. Dovrebbero vederlo sullo schermo perché avverrà dalla Avenue Gru, che è una strada dove è stato installato nel 15° arrondissement, il suo quartiere generale, alla presenza di pochi fedelissimi, diciamo, del cerchio più ristretto, e poi venire qui proprio in bagno di folla definitivo. In effetti è un po' in ritardo, anche perché ricordiamo Marine Le Pen ha parlato effettivamente molto presto, quindi ci si attendeva, ci poteva ragionevolmente attendere anche un discorso prima di quanto poi non lo stia per fare. Volevo Gigi anche raccontare brevemente. Attenzione, però, Sergio, vedo accensione degli schermi, il che forse sentendo la nostra preoccupazione per l'avvicinarsi del GR delle 21, noi amiamo essere puntuali, ha detto forse, ecco, ci sono, proviamo a alzare anche per cortesia i cursori, musica, luci, ma i segnali ci sono tutti. Scusa Sergio, dicevi? Sì, ecco, qui invece ancora no, perché qui continuano a inquadrare su due maxi schermi la folla. Volevo anche, in attesa appunto, sperando di riuscire a dare appunto delle prime parole di Macron presidente, raccontare un po' le persone che hanno, le migliaia di persone sono presenti qui all'Esplanade du Louvre. Ci sono davvero tanti giovani, anche naturalmente tante famiglie con bambini, ma in maggioranza sono giovani. Si era detto, soprattutto col primo turno, che i giovani avevano scelto gli estremi, anche l'estrema destra di Marine Le Pen. Beh, qui guardando i parigini che stasera sono venuti a festeggiare la vittoria di Macron, devo dire che invece i giovani sono una presenza assolutamente preponderante e festaiola, ovviamente. Beh, certo che con il presidente più giovane della Francia repubblicana, quindi da questo punto di vista c'è una continuità. Assolutamente, assolutamente sì. Poi è bello vedere anche famiglie con bambini in una Francia, ricordiamo, non vive anni, mesi così tranquilli, però vedere una folla rilassata che viene a festeggiare tranquillamente fa tirare un sospiro di sollievo. Anche non solamente, diceva prima il direttore Guido Gentili, per l'Europa, ma anche un po' per il periodo in cui ci troviamo a vivere sotto il punto di vista della sicurezza e della minaccia terroristica. Assolutamente. Quindi, la Francia è paese che dal gennaio dello scorso anno, quindi ormai i mesi si susseguono, dalla tragica irruzione omicida di Charlie Hebdo e gli attentati successivi, insomma le giornate di vero e proprio terrore del novembre dello scorso anno, insomma un paese che ha scoperto, forse ha sopportato per certi versi anche l'impatto di tutti quelli che sono le grandi preoccupazioni del contemporaneo, i temi dell'immigrazione, i temi di dove viene il pericolo e come confrontarlo. E sicuramente in questo momento l'impressione che ne abbiamo, appunto Sergio Nava ce lo raccontava in diretta da Parigi e noi lo vediamo semplicemente attraverso questi grandi maxi schermi, mentre comincia a calare la sera sul Louvre, quindi anche il gioco delle luci si fa più marcato, dà proprio il senso di una grande festa. Mentre Sergio, abbiamo fatto le 20:53 in questo istante, allora adesso noi dovremo ti lascio commentare un secondo quello che vedi, così noi prendiamo una decisione sul da farsi, perché naturalmente vogliamo condividere e sentire i primi, almeno il primo intervento del neoeletto Presidente della Repubblica, ma per fare tutto questo dobbiamo, come sanno i nostri ascoltatori, perché sono un po' abituati a questi dietro le quinte, fare i conti con il nostro clock. Sergio, a te il microfono. Allora io vado finché non mi interrompete, vi racconto quello che vedo qui appunto all'Esplanade du Louvre, dove sono ormai veramente migliaia e migliaia di sostenitori di Emmanuel Macron che stanno festeggiando con le bandiere soprattutto francese, ma ci sono anche diverse bandiere europee. Il clima è anche importante, perché sta cominciando a fare anche discretamente freddo, non piove più come ieri e come oggi durante la giornata, però non è ancora così primaverile. I megaschermi invece stanno trasmettendo in questo momento le immagini delle principali televisioni francesi. Ora è il turno di TF1, il primo canale, che è proprio in collegamento da questa piazza, e abbiamo gli inviati di TF1 che stanno intervistando alcuni sostenitori Macron per raccontare anche, se vogliamo, la loro gioia. Non ci sono, ecco, su questo vi posso confermare, non ci sono ancora avvisaglie di un discorso imminente. Ecco, abbiamo attenzione, sentiamo, no, Sergio, ok, il discorso di Macron. Allora chiedo alla regia per cortesia di alzare sul nostro fondo, intanto Cristina Carpinelli ci raggiunge per un GR in diretta come sempre ovviamente, ma in particolare nello studio grande della nostra diretta. Noi di solito facciamo i nostri GR da un altro studio, ma qui siamo dietro alla attualità più diretta che mai. I colleghi di France Info fanno esattamente quello che facciamo noi, cioè raccontano che intanto si ascolta musica. C'è davvero molto movimento. Terrei ancora la linea 30 secondi, poi comunque vada sentiremo l'intervento del Presidente della Repubblica. Emmanuel Macron qui dovrait s'exprimer d'ici quelques minutes. On nous avait annoncé 20h50, c'est passé. Donc Emmanuel Macron, il est coutumier du fait, il a souvent du retard depuis début. Ecco, qui abbiamo imparato anche un altro aspetto. La collega in questo caso dice Emmanuel Macron è un ritardatario, insomma, ha detto a souvent de retard, quindi non sono più di tanto sorpresi, anche se appunto non è comodo per l'organizzazione, ma avevano posticipato dalle 20:45 alle 20:50, 20:55 sono qui con noi, Emmanuel Macron non c'è. Allora siamo in grado di lanciare dritta la nostra sigla di GR24 e sentiremo all'interno di GR24 le prime parole di Emmanuel Macron.